Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La fiamma del lampione si spegne all'improvviso, calando il buio in Waterloo Square. È il 1836. Pall Mall è la prima zona di Londra a utilizzare l'illuminazione a gas e il foruncoloso addetto ai lampioni non ha ancora ben capito come fare. Il gentiluomo dagli occhi di fiamma scende dalla carrozza, teme il buio fin da bambino, ma riesce a raggiungere il portico dell'Athenaeum Club. Sulla porta compare l'anziano e sorridente maggiordomo. Buonasera, signor Dickens. Sommerso dai legni scuri e odorosi della biblioteca, Charles Darwin, un altro socio famoso del club, discute eccitato dell'ultimo fatto di cronaca. Dickens non sembra ascoltarlo mentre carica il tabacco nella pipa. Ha 24 anni e la cronaca, quella dura, nera, la conosce bene, e non solo perché è un giornalista. Alza gli occhi e passa in rassegna gli altri soci. Baffi a manubrio, stelle militari sulle giacche, gote e rubizze. Ecco, questa è Londra, la grassa città dai piedi freddi. Uno di loro legge il Punch, il temutissimo giornale satirico dei Whigs, la sinistra inglese sempre pronta a ironizzare sulla brama di arricchimento della classe dirigente. Charles si stupisce, pensava di essere l'unico spirito liberale in quel ricettacolo di Tories, principi e soldatini. Ma chi è quell'uomo? Charles tenta di metterlo a fuoco in una nuvola di fumo. Tratteggia il suo viso, agitando la punta del polpastrello sulla fodera della poltrona come un pittore fa sulla tela. Ma non è facile rendere la verità di quello sguardo. In fondo, fin da bambino, è sempre stato più bravo con le parole che con i disegni. È il 1820, Dickens ha 8 anni. È piccolo, mingherlino, fa di tutto per non farsi notare. Non eccelle nello studio, non è un campione di cricket come i suoi compagni, ma ha imparato a catturare ciò che lo circonda con pochi tratti di grafite sul suo inseparabile quaderno. Disegna una nuvola che assomiglia a un San Bernardo, il profilo di un compagno che si improvvisa giocoliere, le navi che attraversano il porto di Chatham, incorniciate dalla finestra della sua camera. I Dickens si sono appena trasferiti da Portsmouth. Il padre, John, è un tipo allegro e spendaccione e la paga da impiegatuccio della marina non arriva mai a fine mese. Ma Charles non ci pensa. È entusiasta di come tutto nel Kent sia diverso dal grigiore della città, di come il verde sia più verde, di come il mare sia vivace, di come tutto in campagna sembri più bello e più vero. Non è ancora nevicato in quel dicembre del 1836 e Dickens ne sta proprio discutendo con Robert Seymour, l'illustratore del Circolo Pickwick. Il romanzo a puntate, che è giunto ormai al 10° episodio, lo ha trasformato da giornalista a scrittore famoso. Come da bambino, per Dickens le illustrazioni sono fondamentali e se avesse sufficiente talento e pazienza le realizzerebbe lui stesso. Quando bussano alla porta dello studio, Charles batte i pugni sulla scrivania, temendo una nuova incursione della moglie Catherine. Sono sposati da 9 mesi, eppure lei crede ancora di essere in viaggio di nozze. Sulla porta invece compare un uomo dai modi ampollosi, e William Ainsworth. Se non fosse anche lui uno scrittore, Dickens non si sarebbe mai sognato di frequentarlo, e se non fosse anche tremendamente insistente, non accetterebbe l'invito a passare il Natale a Kensal Lodge, la sua tenuta di campagna. Ma pur di farlo uscire, Charles direbbe di tutto. Nella sala da pranzo di Kensal Lodge, soffocata dall'argento delle decorazioni natalizie e dal profumo di pudding alla cannella, Dickens finge di non sentire la veemente disquisizione di Ainsworth sul bisogno di dare una scossa alla noiosa Inghilterra vittoriana. Questi aristocraticucci non sanno nemmeno che Londra è sull'orlo della rivolta da quando il governo Tory ha deciso di aumentare il prezzo del pane. Charles guarda il suo piatto. Potrebbe finire la fetta di tacchino ripieno, certo, ma nonostante il freddo gli sia entrato nelle ossa, quel pezzo di carne sfilacciosa e troppo lucida non gli va proprio giù. Preferisce rivolgersi alla torba avvolgente del whisky e allo sguardo. Tra le teste degli invitati e i colli lucenti delle bottiglie mette a fuoco il profilo di un uomo. È arrivato più tardi e non ha capito il suo nome, ma gli sembra di averlo già visto. Poi nota una copia del Punch spuntare dalla tasca della sua giacca. Ma allora si tratta di... If you haven't got a hippie, God bless you. A soul kick, a soul kick. Please give me a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick. Please give me a Fuggiti dal loro ospite che sta oltraggiando un bel canto natalizio in salotto, Dickens e lo sconosciuto si accomodano in biblioteca. Mentre caricano le pipe, parlano del Natale che per entrambi è ormai snaturato dei suoi veri valori. Dickens sta pensando a un racconto che possa riavvicinare la gente al Natale, ma è ancora in alto mare. L'uomo lo incoraggia con ardore. Solo ora si accorgono di non essere stati presentati. L'uomo che tende la mano con un sorriso si chiama John Forster. John Forster. Charles ha già sentito parlare di lui, è uno scrittore, sapeva che avevano qualcosa di profondo in comune, risponde alla stretta di mano. Meno male che entrambi non sono schiavi dell'etichetta o sarebbero potuti finire come in quella storiella, quella dei due inglesi naufraghi su un'isola deserta che morirono dopo 20 anni senza essersi mai rivolti la parola perché nessuno li aveva presentati. Inglesi, creature prigioniere della loro spaventosa buona educazione, o come diceva lo scrittore Stefan Zweig, essere inglese non è una vernice, è una cosa che entra nel sangue, ne regola il ritmo, penetra nella più vera personalità dell'essere umano, nell'arte. Ogni vero artista ha intimamente lottato contro il suo essere inglese, ma il più ardente e disperato odio di Byron e Shelley non è mai stato capace di abbattere la tradizione. Dickens invece è profondamente inglese, nel rito del tè, nella convinzione della fede anglicana, nei denti storti e nello sguardo lucido. Ed è inglese perché non si ribella mai apertamente alla società, si finge adagiato nelle convenzioni, tra i discorsi inconcludenti e le gote rubizze dei soci dell'Athenaeum Club, ma in realtà è un self-made man. Ed è fermamente anti-aristocratico. È come se Dickens vivesse in un'altra Inghilterra, quella vera. Quella alienante e disperata degli slum di Londra, che ha conosciuto da ragazzino sulla sua pelle in quella fabbrica invasa dai topi. Vi sentite bene, signor Dickens? Charles Dickens ritorna al presente, nel 1836, e fissa John Forster soffiando il fumo dalle narici. La pipa è ormai spenta, e fuori, il parco di Kensal Lodge è ricoperto di neve. Certo, non è un vero Natale senza neve, Forster lo fissa aspettando una risposta. Dickens è lo scrittore più amato d'Inghilterra, si è appena sposato con la bella figlia del suo editore, eppure non si è mai sentito così solo. Possibile che abbia cominciato a parlare della sua infanzia con quello sconosciuto quasi senza accorgersene. Sono imprigionati dalle buone maniere gli inglesi, ma riescono sempre a essere imprevedibili, soprattutto con loro stessi. Sì, sto bene e forse un giorno vi racconterò questa storia. Forster non insiste. C'è qualcosa di sinistro negli occhi dell'amico, qualcosa da scoprire con la pazienza e con l'eccitazione con cui ha assaporato mese dopo mese gli episodi de Il Circolo Pickwick. È l'inizio di un'amicizia inaspettata e anche per questo immediatamente solida. Dickens e Forster si vedono spesso la sera al club, fiammeggianti alieni mischiati a uomini di legge impegnati a pensare tutto il male possibile di un mondo che nemmeno conoscono. Sono momenti privati, fatti di chiacchiere quasi cameratesche, di whisky, di ricordi che arroventano le labbra più del tabacco. Nel 1824 il padre di Charles, John, viene licenziato ed è costretto a tornare a Londra con la famiglia. Il Kent e i suoi colori sono solo un lontano ricordo nella lurida stanza con vista sulla ferrovia che possono permettersi a Camden Town, uno dei quartieri più brutali della città. Poco dopo, John Dickens viene arrestato per debiti e rinchiuso nella prigione di Marshalsea. Charles, che ha 12 anni, va a trovarlo ogni giorno dopo la scuola, fino a che è costretto a trovare un lavoro per aiutare la madre e i 7 fratellini. Ed è proprio lei, Elizabeth, che gli era sempre sembrata una creatura senza carattere, a dimostrare un inaspettato senso pratico e a trovargli un lavoro. Charles prova a trattenere il respiro. Quell'odore pungente gli dà la nausea. La madre, piegata su di lui come una fiera, lo spinge a varcare il portone di ferro della Warren's Blanking Factory, la fabbrica di lucido da scarpe di un lontano zio. Questa chilometrica parentela non ha nessun vantaggio per lui. Le condizioni sono chiare. Niente pause, orari flessibili che variano sempre in eccesso e 6 scellini di paga a settimana. Quanto basta per portare a casa un pezzo di lingua di manzo e qualche patata. Non esistono orologi alle pareti della fabbrica e mentre incolla come un automa le etichette sui barattoli di lucido da scarpe, Charles segue le ombre proiettate dal sole nella stanza, l'unica cosa che gli ricorda che fuori il mondo continua a girare anche senza di lui. Il lavoro è talmente ripetitivo che se non fosse per i topi che gli saettano tra i piedi si addormenterebbe. Sentono l'odore della colla, i ratti del tamigine vanno pazzi. Ci sono altri bambini nella stanza, anche loro sembrano topi con quel berretto di carta e il grembiule di tela grezza, ma nessuno osa parlare. Thomas, il capo del reparto che si dà arie da signore per via della sua giacca rossa, cammina tra loro con il passo gracchiante di un secondino. Charles continua a lavorare, ma viaggia con la fantasia e torna nel Kent. Corre per i campi verdissimi e poi in casa, nella piccola biblioteca del padre, dove, leggendo, si trasforma una volta in Don Chisciotte e l'altra in Robinson Crusoe. Guarda che disastro! È Thomas che urla, puntandogli sotto al naso un barattolo con l'etichetta mezza staccata. Un bambino fissa la scena con terrore. Charles, invece, afferra un lembo dell'etichetta con le dita, la tira per bene e la reincolla. Ora la faccia del proprietario, Jonathan Warren, il primo al mondo a brevettare il lucido da scarpe, è ancora più ridicola con quel sorriso ipocrita da Babbo Natale. Ecco, capo, ora è perfetta. Presto diventai abile nel mio lavoro. Gli altri bambini sapevano che, nonostante la nostra complicità, ero diverso da loro, per indole e per cultura, e mi chiamavano il signor Dickens. Il nostro capo, Thomas, dopo un primo periodo fatto di botte e rimproveri, invece mi dimostrò la sua stima, chiedendomi di rinfrescargli il poco latino che conosceva e chiamandomi perfino per nome. È il 1849. Sono trascorsi 13 anni dal Natale in cui si conobbero e Forster è diventato per Dickens l'amico più caro e necessario. Anche per questo, invitato da Charles con la scusa di mostrargli il primo capitolo del suo nuovo romanzo, David Copperfield, John ascolta le sue inaspettate confessioni con sorpresa e sgomento. Strano credere che lo stesso ragazzino che moriva di fame in una terribile fabbrica sia ora lo scrittore più famoso del mondo. Sono certo di non aver mai conosciuto un uomo con la sua stessa grande forza di volontà. Ogni giorno, dopo una dura giornata di lavoro in fabbrica, Charles esce all'aria aperta. La luce del giorno è solo un tiepido ricordo da annusare nell'aria, ma lui comincia a camminare, lasciandosi guidare dall'istinto. Anche se è solo un ragazzino, girovaga per Londra avvolto dalle ombre, respirando gli umori umidi dei vicoli e registrando ogni dettaglio della città. Quando trova qualche spicciolo in tasca, si chiude in un caffè per godersi lo spettacolo degli altri avventori. Ubriachi molesti, donne piumate di rosso in cerca di compagnia, operai dall'ugola d'oro dalla camicia ancora sporca di fuliggine. Charles lascia volare la fantasia. Mi ricordo un caffè vicino a Saint Martin. Sulla vetrina vi era una targa di vetro con la scritta Coffee Room, in modo che potesse essere letta dalla strada. A me, che ero dentro, però appariva come Mur i Foc, parole misteriose e terribili, simili a quelli che una mano soprannaturale scrisse sulle mura di un re. Forster, il suo amico, sorride. Non aveva mai visto il grande Dickens sotto quell'aspetto. Si sente stranamente in colpa, in difetto, verso chi come lui ha sofferto in quel modo. Dickens evita lo sguardo dell'amico, perdendosi nella luce ambrata della lampada. Credeva non avrebbe mai raccontato a nessuno della fabbrica, delle botte. Ha sempre pensato di doversi difendere dal suo passato, costruendosi un altro mondo fatto da un camino acceso, liquori d'alta riserva e niente topi tra le gambe. Sì, i tempi per il piccolo Charles Dickens sono cambiati, ma l'umiliazione e il senso di abbandono di quel periodo gli fanno ancora visita nella notte. Voi sapete parlare alla gente, caro Dickens. E la vostra vita è un romanzo straordinario. È la voce di Forster che irrompe tagliando lo spesso silenzio tra i due. Dovete assolutamente scriverla. L'affascinante storia di Charles Dickens e John Forster continua tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. See, the storm is broken. Oggi a Destini Incrociati siamo nella Londra vittoriana e Charles Dickens, che diventerà lo scrittore più famoso del secolo, sta muovendo i primi passi nel mondo della letteratura. Per riuscirci, però, ha bisogno di liberarsi dei suoi fantasmi e l'incontro fortuito con lo scrittore John Forster potrebbe dare una svolta decisiva alla storia. Dickens e Forster passeggiano di fronte alla cattedrale di St. Paul. È domenica, ma non hanno nessuna voglia di andare alla funzione. Un uomo taglia loro la strada subito rincorso da un altro. Gli ha appena rubato l'orologio. Sono scene frequenti. La città è sull'orlo della rivoluzione, ma nessuno sembra accorgersene. Eppure quella che ha sconvolto la Francia è accaduta solo 40 anni prima. Dickens guarda Forster. Entrambi non credono nelle chiacchiere della politica o peggio nella violenza dei militanti del popolo. Dickens sa cosa deve fare: creare un mondo di personaggi utili a divertire il pubblico e aprirgli gli occhi su questioni fondamentali. Ecco cosa ne pensa lo scrittore del Gattopardo Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dickens è uno dei più grandi creatori di mondi e il suo è senz'altro tra i più singolari. Di esso conosciamo ogni campo, ogni strada, ogni volto. Eppure dobbiamo dire a noi stessi che non abbiamo mai incontrato alcunché di simile. Forse li rivedremo, se saremo buoni e andremo in paradiso. Il regno di Dickens, infatti, è il realismo magico. Certo, l'atteggiamento di Dickens può spiazzare. Forse Tomasi di Lampedusa non sbaglia a criticarlo, ma non si può sottovalutare l'ardita scelta di cambiare registro e di passare dallo sfavillante Il Circolo Pickwick al tragico e ironico Oliver Twist. Le storie che hanno come protagonista un ragazzo sono le storie migliori del mondo. Mentre si appassiona alla discesa dell'ingenuo orfano nei bassifondi della capitale, il pubblico rimane scioccato della forza che serpeggia nell'opera. Non solo Oliver Twist è il primo romanzo inglese ad avere un protagonista ragazzino, ma è anche l'unico a interrogarsi seriamente sulla vita di una Londra oscura e venata di tragico umorismo. Per piacere, signore, ne voglio ancora. Cosa? Oliver Twist dice che ne vuole ancora. Ancora? Quel bambino finirà sulla forca. Ecco lo scrittore G.K. Chesterton, grande studioso di Dickens e famoso per avere creato il prete detective Padre Brown. I critici hanno biasimato Shakespeare per aver inserito episodi comici nelle sue tragedie. Ci voleva un uomo con il coraggio e la grossolanità di Dickens per inserire episodi tragici nella farsa. La gente si chiede come Dickens possa conoscere tanti particolari della vita dei bassifondi. Lui, scrittore di successo, sposato alla figlia di un editore e padre di un bambino. Forse è tutta una bufala, una montatura pubblicitaria, ma John Forster conosce la verità. Dopo Oliver Twist, Dickens diventa il paladino delle cause sociali. Lavora e viaggia moltissimo, negli States per un ciclo di conferenze, a Genova e Parigi. Ma tutto questo trambusto non gli giova. C'è ancora qualcosa che va detto, che va fatto, per lui e per tutti quelli che non possono far sentire la loro voce. E così Dickens capisce che deve raccontare la sua storia. Nel 1824, dopo 4 mesi di carcere, il padre di Charles, John Dickens, viene rimesso in libertà. Una sua vecchia zia è morta e gli ha lasciato un piccolo gruzzolo che copre appena i suoi debiti. Nonostante questo, la madre decide che Charles non ha bisogno di studiare e che quello nella fabbrica di lucido da scarpe è un lavoro sicuro. Charles non le perdonerà mai i 30 giorni di sofferenza e umiliazione a cui lo costringerà la madre prima di convincersi a lasciarlo libero di scegliere. Scegliere. Un bambino non può farlo, è peggio di una donna, un essere inferiore il cui futuro è troppo lontano per contare qualcosa, un peso per la società degli adulti. Così Charles fa di tutto per emanciparsi dai genitori. Impara la stenografia e dopo un breve tirocinio in uno studio legale viene assunto in un giornale. Si occupa delle stelline, i piccoli trafiletti di annunci e curiosità senza importanza. Dopo una lunga gavetta fatta di inchiostro e calli da rotative, Charles comincia a disegnare. Una vignetta al giorno firmata Boz, che sarà il nomignolo con cui tutta l'Inghilterra lo conoscerà come sagace umorista politico. Come da bambino, disegnare è il modo più diretto per comunicare, ma non il più completo. Charles deve scrivere, deve farcela contro i genitori che non credono in lui e che bene l'avrebbero visto a marcire tra i topi in fabbrica. È diverso da loro, Charles, è diverso da tutti. In redazione sorride, annuisce, ma non parla. La sua vita, i suoi incubi, i topi che squittiscono rosicchiandogli i malleoli, sono chiusi ermeticamente in lui. Ma ci vuole qualcuno che riesca a cacciarli via. Forster, amico mio, ho deciso. Mi fareste l'onore di leggere il manoscritto di cui vi ho parlato? Si intitola David Copperfield. Non è ancora stato pubblicato e non lo farò finché non mi avrete detto che cosa ne pensate. Un pigmalione, un consigliere, un confidente. Ma chi è davvero il roccioso, fidato, misterioso John Forster? È il 1828. John ha 16 anni e passeggia insieme al padre per la Main Street di Newcastle. Risata truce, guance arrossate dal vento e riserva di whisky a scaldargli le budella. I due sono scozzesi fino al midollo, ma per una volta hanno avuto una buona scusa per ubriacarsi. La partenza di John. Dopo i massimi voti al Royal Grammar School, Forster ha deciso di abbandonare i grembiuli sporchi di sangue della macelleria del padre per avventurarsi nella vita vera, quella promessa da Londra. Dapprima indeciso se laurearsi in matematica o in giurisprudenza, John decide di seguire per intero il suo sogno. Vuole viaggiare, conoscere nuovi mondi e soprattutto scrivere. Mentre studia, trova subito lavoro in vari giornali. Sono tante le notizie che lancia per primo grazie alla sua infaticabile passione. Sa scrivere, John, ma soprattutto sa usare la parola giusta al momento giusto. E nella giungla del giornalismo, dove un articolo di 3 colonne fitte fitte deve essere pronto per ieri, il suo intuito è prezioso. Litri di tè fumante e grandi corse contro il tempo. La giornata di Forster spesso assomiglia a un'interminabile staffetta con i propri nervi. Eppure lui non perde mai la calma. La fronte si aggrotta, gli occhi si iniettano di sangue, ma non è più collerico e litigioso di un qualsiasi buon direttore. Ecco qual è il suo prossimo passo: diventare direttore e poter scrivere ciò che gli piace, magari di critica letteraria, perché ama i romanzi e con il suo stile elegante e puntiglioso potrebbe tener testa agli scritti del famoso Bulwer Lytton. Colui che ha coniato la frase «Era una notte buia e tempestosa». È il 1831. C'è buio e tempesta quando Forster diventa vice direttore dell'Examiner. I colleghi che l'hanno sempre stimato cominciano a storcere il naso. Da perfetti borghesi vittoriani trovano sconveniente che un uomo di 20 anni sia così riservato e non dimostri interesse per nient'altro che per il suo giornale. Che cosa nasconde il buon Forster? I colleghi saranno presto accontentati dai titoli delle pagine mondane. John getta il giornale a terra e procede solitario lungo il Tamigi. I riflessi violetti del tramonto non riescono a scaldargli il viso. Newcastle era piccola e provinciale, ma non così alienante. Molte persone gli passano accanto, una lo urta alla spalla. Si scusa, certo, è inglese, ma lui no, è scozzese, gli romperebbe il muso. Tutto pur di liberare la rabbia che cova dentro. Torna indietro e raccoglie i fogli stracciati. Deve rileggere un'altra volta la lettera che Letitia ha spedito al suo giornale. Fosse stato un problema di qualsiasi altro tipo, avrei potuto dirmi: guardati indietro, guarda tutte le cose che hai fatto nella tua vita, chiedi ad ogni amico che hai. Ma che risposta posso dare? Credo che rinunciare anche solo all'idea di una vicina e cara relazione con te sia un dovere sia nei miei che nei tuoi confronti. Un dovere nei suoi confronti. Letitia Landon, la famosa poetessa che si firma Lel, l'unica donna che credeva di poter amare, lo ha appena ripudiato a mezzo stampa. Una donna moderna e organizzata, non c'è che dire, ma è John ad avere sbagliato. Ha creduto ad alcuni conoscenti che l'accusavano di essere una donna di facili costumi e non si è fidato delle giustificazioni di lei. Le scuse non sono servite, le promesse nemmeno. Dovrà abituarsi a fare a meno di Letitia. Per sempre, senza la sua intelligenza brillante, senza quei suoi occhi spaventosamente decisi. Che strano. Gli viene quasi da ridere adesso. Forse perché si sente un personaggio di orgoglio e pregiudizio. E gli scozzesi non leggono Jane Austen. Forster promette di non sposarsi mai e si vota completamente al lavoro e alla diffidenza verso gli altri. Certo, dà alle stampe Vite dei governanti del Commonwealth, un saggio che lo elegge nella cerchia di intellettuali del suo amato Bulwer Lytton. Ma non c'è niente di concreto nella sua vita, niente che lo faccia davvero sentire parte di qualcosa, finché non incrocia altri occhi tristi e sbalorditi come i suoi, quelli di Charles Dickens. Quasi immediatamente Forster e Dickens vivono in una simbiosi appassionata e senza tempo. L'uno forte e casto, l'altro fragile e inquieto. Charles scrive febbrilmente, senza fermarsi mai. John lo consiglia, corregge le bozze dei suoi romanzi e lo sprona a liberarsi dei suoi fantasmi. Sempre scrivendo, ovviamente, perché solo raccontando se stesso potrà tornare a vivere. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo nella Londra del 1849. Da 13 anni Charles Dickens è lo scrittore più famoso del mondo e con i suoi romanzi denuncia le piaghe di una società sempre più chiusa in se stessa. Solo John Forster, amico sincero e appassionato, sa che Dickens non ha ancora mostrato la sua parte più intima e sofferta e lo sprona a liberarsi dei traumi della sua infanzia per raggiungere una serenità e insieme una nuova levatura artistica. È notte e la redazione dell'Examiner è quasi deserta. Forster chiude la porta del suo ufficio e scarta il manoscritto di David Copperfield, il nuovo romanzo di Charles Dickens. Quanto pesa? Saranno almeno 600 pagine. A differenza del solito, Dickens ha scritto il romanzo quasi di getto, senza aspettare la pubblicazione dei primi episodi per conoscere la reazione del pubblico e adattarla alla storia. Anche questo indica che il romanzo è più privato del solito. Forster estrae una bottiglia di whisky dal cassetto della scrivania e comincia a leggere. Si vedrà da queste pagine se sarò io o un altro eroe della mia vita. Devo ricordare come nacqui, come mi fu detto, e credo, di venerdì a mezzanotte in punto. Fu rilevato che nell'istante che l'orologio cominciava a battere le ore, io cominciai a vagire. John sorride, beve un sorso direttamente dalla bottiglia. Finalmente ci siamo. Fu dichiarato, in considerazione del giorno e dell'ora della mia nascita, primo, che sarei stato sfortunato. Secondo, che avrei goduto il privilegio di vedere spiriti e fantasmi. Sulla prima parte della predizione non è necessario dir nulla, perché nulla meglio della mia storia può dimostrare se sia stata confermata o no. Sulla seconda, osservo soltanto che a quest'ora sono sempre in attesa di una loro visita. John ride fino alle lacrime. Nel romanzo, David, rimasto orfano del padre, viene costretto a lavorare nella fabbrica del patrigno. Appena può, scappa, si impegna in uno studio legale, ma coltiva la passione per la scrittura fino a che non riesce a diventare cronista e infine scrittore. Ovviamente tutto si svolge tra una miriade di situazioni, personaggi e colpi di scena che codificano definitivamente lo stile febbrile e la complessità pop delle opere di Dickens. Mio caro Charles, è la cosa migliore che abbiate mai scritto, la più vera. David Copperfield è un romanzo straordinario ed è finalmente la vita sofferta, ricordata, immaginata di un uomo prima che di uno scrittore. Charles Dickens. Il suo sguardo è una lama d'acciaio che fende la nebbia dell'infanzia. In David Copperfield, la sua autobiografia mascherata, vi sono dei ricordi del bimbo di 2 anni, della madre, tracciati con una precisione tale da sembrare figurine ritagliate che si distaccano sul fondo dell'inconsapevolezza. Così scrive lo scrittore Stefan Zweig, ma anche il grande Lev Tolstoi lo accoglie come un capolavoro e più tardi perfino Sigmund Freud si dichiara grande ammiratore del Copperfield. Ma perché questo romanzo così simile e così diverso da tanti altri riusciti e riuscitissimi di Dickens ha vinto ed entusiasmato più di tutti? Forse perché tra le righe, tra le situazioni ora tragiche ora comiche, serpeggia la verità di un'epoca. Ecco cosa ne pensa il grande Graham Greene. È un errore pensare a Oliver Twist come una storia realistica. Fagin o Bill Sykes sono tutti parte di una grande scena di invenzioni. Solo più tardi, con David Copperfield, Dickens imparò davvero a scrivere di esseri umani. Certamente David Copperfield non sarebbe stato lo stesso senza la lungimiranza di John Forster. Lui sapeva che Dickens si sarebbe potuto liberare dal peso che da anni gli ostruiva il petto e la mente, ricreando il dolore del trauma e non negando. E come si può negare che David sia lui stesso, Charlie, il ragazzino emarginato dal crudele mondo degli adulti che cerca il grande riscatto? Folgorato da questa evoluzione, Forster decide di abbandonare la biografia di un genio delle lettere, Jonathan Swift, per dedicarsi alla sua opera più importante, La vera vita di Charles Dickens. Un'opera monumentale, insieme intima, vera o illusoria che sia, destinata a celebrare sia il genio dello scrittore che la generosità dell'uomo che si batte per vedere riconosciuti i diritti dei bambini nell'era della rivoluzione industriale. Anche per questo, Forster lo spinge a non rendere pubblica la sua relazione con Ellen Terry, un'attrice di soli 16 anni che con grande scandalo riuscirà a separare Dickens dalla moglie Catherine, riportandola a vivere nel suo amatissimo Kent, ma non dall'amore del suo pubblico. Se Dickens muore prima che la legge che migliora le condizioni delle carceri inglesi venga promulgata, come si augurava in Piccola Dorrit, riuscirà almeno a vedere approvata dal Parlamento quella contro lo sfruttamento del lavoro minorile, esplicitamente suggerita dalle lucide e inquietanti pagine di Oliver Twist e David Copperfield. Sicuramente il suo più grande successo. Amici di una vita intera, colleghi, confidenti, alleati contro un mondo che condanna la bellezza della quotidianità, Dickens e Forster si spegneranno a pochi anni di distanza nello stupore e nel cordoglio di un paese, l'Inghilterra, che sapevano di avere contribuito a migliorare. Forse Stefan Zweig, con queste parole, ha capito più di tutti l'opera di Dickens. Egli voleva insegnare la poesia della vita quotidiana a tutti coloro che erano incatenati in un'esistenza banale. A migliaia e migliaia di uomini, Dickens ha mostrato fino a quale profondità della loro povera vita giungeva l'eterno.